tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Consultate il sito www.giordanobrunomi.wordpress.com per le mail notiziariogiordanobruno@gmail.com. Prete, se lo conosci, lo eviti. Ricordiamo che sul sito che ho detto prima trovate oltre 300 recensioni di libri ateo anticlericali col motore di ricerca. Iniziamo dai misfatti della Chiesa e iniziamo 24 luglio 2020, concluso in Cassazione il processo nei confronti del prete Vladimir Resenditz Gutierrez, pedofilo, ex rettore del seminario minorile dei Legionari di Cristo di Gozzano, Novara. Scandalo seminario di Novara. Uno è riuscito a fuggire in Messico. Da una vecchia notizia anticlericale trovata all'archivio che c'è a Fano, 1 luglio 1874. Questo è il giornale del Libero Pensiero che pubblica una notizia del 2 giugno. Rissa fra monache a Castel Gandolfo, Roma. Le responsabili segregate nei sotterranei, le carceri clericali. Passiamo all'abusi su un minore. Arrestato sacerdote ad Avellino, notizia della procura di Avellino. 26 ottobre 2021, atti sessuali su un minore di 14 anni. E questa l'accusa che ad Avellino ha portato in carcere un prete, i soliti preti pedofili. Napoli, prete pedofilo condannato a risarcire la vittima dopo 30 anni, sentenza storica. 28 ottobre 2021, i giudici del Tribunale di Napoli hanno stabilito la condanna per il sacerdote Don Silverio Mura, che era insegnante di religione, è sparito varie volte, insomma alla fine è stato condannato. Il Corriere della Sera, del supplemento La Lettura, del 31 ottobre 2021. Libri narrativa straniera, i figli del Papa Borgia del potere, romanzi storici. Nel primo volume di una nuova saga, lo scrittore Alex Connor si diverte e ci diverte a ricostruire la vicenda del terribile Papa Alessandro VI Borgia, assassino, avvelenatore, stupratore, lussurioso, goloso, insomma, pieno di sicari, nepotista, ladro. Insomma, è il tipico prete. Dopo l'elezione, nel panorama romano impregnato di crudeltà e inganni, Rodrigo Borgia rimane in sella. Il settimanale anticlericale Cronaca Vera segnala i mostruosi crimini, 26 ottobre 2021, pagina 16, i mostruosi crimini contro la donna che esistevano in Italia quando non c'era la 194. Migliaia di donne morivano ogni anno per aborto clandestino, però quelle che avevano i soldi andavano a Londra. Mezzo secolo fa la capitale inglese era meta di un assiduo pellegrinaggio di donne di varie età e provenienza geografica, accomunate dall'impellente necessità di evitare un parto indesiderato, i crimini della Chiesa. 11 ottobre 2021, video anticlericale, mi raccomando, andate tutti a vedere. L'incidente è avvenuto davanti alla chiesa della Beata Vergine del Rosario, dietro Piazza Unità a Trieste, dove è crollata la statua della Madonna o di un santo, adesso non mi ricordo bene. Ecco, basta digitare su Google incidente durante la processione video, molto interessante. Passiamo a questo sindaco, questo scandalo a Mosciano, provincia di Teramo. Un fedele anziano diffida il parroco dal celebrare i suoi funerali per, tra virgolette, ragioni morali. Il fatto che diffidi anche il sacrestano dal manipolare la sua bara lascia intendere chiaramente che lui sospetta una tresca amorosa fra il parroco e il sacrestano. e quindi non voglia avere a che fare con questi due tizi. Dalla stampa del 12 ottobre, grande vittoria anticlericale a Moncalieri, un procedimento amministrativo per inquinamento acustico contro le campane spaccatimpani, esposto presentato dagli anticlericali locali, grande vittoria, nessun rintocco dalle 21.30 alle 7, grande vittoria anticlericale. Eutanasia e cannabis, boicotteranno il referendum ma sarà un autogol, speriamo. Dal manifesto del 30 ottobre 2021, pagina 8, Sandro Gallittu, responsabile ufficio nuovi diritti CGL nazionale, insomma mette le mani avanti per il referendum che ci sarà in primavera. Come ai tempi della legge 40, tenteranno il sabotaggio impedendo di raggiungere il quorum, perché sanno che se si portassero davvero gli italiani a votare perderebbero. Noi siamo come in Svizzera, dove il referendum è valido qualunque sia il numero di partecipanti. Un altro romanzo anticlericale, Blu di Prussia e Rosso Porpora, Giallo in Vaticano, i crimini della Chiesa, crolli nel Vaticano, la scomparsa di un misterioso dipinto, un papa morente agonizzante, uno scontro epocale per il rinnovamento della Chiesa. Insomma, un romanzo da non perdere, edito da Salani. Abbiamo poi, dal mio dizionario di terminologia ate anticlericale, ideologie clerical maschiliste, manipolano, spersonalizzano, espropriano le donne del loro corpo, del loro diritto alla vita e all'autodeterminazione. Da Michele Martelli, Italy, Vatican State, Fazio Editore. Ignostico, dall'ateo del 2014. Neologismo preferito da alcuni liberi pensatori razionalisti al posto di ateo o agnostico. Passiamo ora ai detti anticlericali e parliamo di questo ex prete che si chiamava Giorgio Asproni, che era un grande anticlericale, e cosa disse contro i gesuiti? I gesuiti sono capaci di ogni delitto, anche dell'omicidio premeditato. E quindi, con questa frase molto significativa, auguri, saluti a tutti. Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni su Monte Calvario anche tu, cambia.